Non so se tutti sono come me, ma da quando mi sono messo a leggere la Bibbia seriamente, la lettera agli ebrei era la meno apprezzata, e questo non tanto perché avessi verso di essa una antipatia ingiustificata a livello epidermico, ma perché gli argomenti che trattava erano lontani dalla mia cultura. Infatti, leggere descrizioni su di un tabernacolo, di un tempio, di regole cultuali a me profondamente sconosciute, trovarvi personaggi come Melchisedec e applicazioni morali sulla sua persona. Per non parlare di esortazioni come «Usciamo quindi fuori dall'accampamento» e B. 13.13, tutto questo era lontano anni luce dai miei pensieri. Ma, con il passare del tempo, parliamo di decine di anni, pian piano mi sono reso conto che tutto questo era normale e umano. Normale! Perché la lettera era indirizzata a persone che avevano una cultura e abitudini ebraiche. Umano perché io, non essendo di estrazione ebraica, non potevo capire ciò che dicevano. Nonostante questo, ho sempre continuato a leggere la lettera agli ebrei con lo stesso zelo dedicato alle altre parti della scrittura, ricevendo di giorno in giorno sempre più chiarezza. Ora che ho una conoscenza più approfondita della cultura del popolo ebraico, dopo aver letto decine e decine di volte l'Antico Testamento ed essermi appropriato molto di più del messaggio del Vangelo, la lettera agli ebrei costituisce una delle lettere più belle in merito alla formazione della mia fede. Non essendo mia intenzione commentare tutta la lettera, dato che ci sono già dei buoni commentari e dei quali è utile ogni tanto trarre qualche riflessione, prendo in esame solo il capitolo 8, sezione inequivocabilmente centrale di tutto il discorso dello scrittore. E centrale perché inizia col dire che sta presentando i punti essenziali delle cose, poi perché sta parlando del nuovo patto, patto che in ambito religioso ha diviso l'umanità in due, rendendo libero l'accesso a Dio per tutti gli uomini di ogni razza, tribù e nazione. Il nuovo patto è stato un evento talmente megagalattico che gli uomini lo stanno guardando con l'imbuto dalla parte più grande anziché dal buco piccolo. In definitiva, gli uomini hanno ridotto purtroppo l'immensa opera di Dio ad un rito religioso che assomigliasse a qualsiasi rito religioso formulato dall'uomo. Guardiamo dunque questo nuovo patto confrontandolo, ovviamente, con il vecchio. Iniziamo col leggere il capitolo 8 della lettera facendo bene attenzione a ciò che Dio vuole comunicarci. Non prendiamo queste parole come una semplice esortazione morale, perché in questa parte della lettera vi sono le dottrine basilari del cristianesimo. In chiave ebraica è vero, ma i principi sono genuinamente cristiani. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo, che il Signore e non un uomo ha eretto. Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici. È perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. Guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ora però egli ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore è il patto fondato su migliori promesse, del quale egli è mediatore. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Infatti Dio, biasimando il popolo, dice: «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo, non come il patto che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto. Perché essi non hanno perseverato nel mio patto e io a mia volta non mi sono curato di loro», dice il Signore. «Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni», dice il Signore. «Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio. Ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello, dicendo: conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dicendo, un nuovo patto, egli ha dichiarato antico il primo. Ora, quel che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire. Dopo aver parlato del sacerdozio istituito da Dio, l'autore della lettera prende atto che Gesù è il sommo sacerdote, cioè quello che per i cattolici è il Papa, il quale viene appunto chiamato sommo pontefice, come troviamo scritto nella Bibbia tradotta da Fulvio Nardoni. E questo, occorre ripeterlo, quando Pietro era ancora in vita. Per cui, dalla scrittura, non risulta che ci sia stato altro Papa che Gesù Cristo. L'autore della lettera agli ebrei non si limita a riconoscere in Gesù l'unico Papa o sommo sacerdote, per pura curiosità o per una semplice informazione, ma nell'ambito religioso vede dei risvolti pratici di una tale portata da produrre uno sconvolgimento privo di paragone. Infatti, grazie al suo sacrificio e alla sua resurrezione, Gesù ha inaugurato un patto stabilito da Dio con l'umanità, che non solo è più grande, ma è anche nuovo. Nuovo perché il patto non è più basato su una fedeltà reciproca dove Dio rimane fedele a condizione che l'uomo rimanga fedele, ma perché ciò che ha decretato è sicuro solo sulla base del sacrificio di Cristo Gesù. Il patto è più grande perché le promesse sono immensamente superiori, riguardando non solo ciò che è passeggero come ciò che è terreno, ma cose eterne che non verranno mai più meno. Purtroppo molti credenti, non avendo capito questa rivoluzione nel campo della fede cristiana, si sono limitati solo a fare dei cambiamenti umani rispetto ai credenti dell'antico patto. E così, anziché offrire animali con una coscienza ancora sporca di peccato, come gli ebrei, praticano un culto con il pane e il vino, è vero, ma mantengono ancora una coscienza colpevolizzata. La legge è un dovere, compiere la volontà di Dio è uno sforzo, non hanno la coscienza di appartenere a Dio, offrono un culto che non è la vera espressione di riconoscenza per essere stati. Perciò è proprio opportuno esaminare almeno 7 conseguenze prodotte dal nuovo patto stipulato da Dio tramite Cristo, per non essere dei ricchi che vivono da poveri, per non glorificare Dio davanti ai nemici del Vangelo. E, sempre utile ricordare, che gli uomini guardano più i fatti che ascoltare delle parole. Infatti tutti sono capaci di parlare bene, di fare dei bei discorsi, di vantarsi di essere dei maestri, ma le opere di ognuno sono più persuasive di ogni altro discorso. Questo aspetto dovrebbe farci riflettere e aiutarci anche a capire il rapporto che aveva Cristo con il popolo di Israele prima della sua incarnazione. Un esempio classico è l'episodio della vita dell'incredulo Naaman, capo dell'esercito del re di Siria. Quando si presentò davanti al profeta Eliseo per essere guarito, Eliseo non gli ordinò di credere nel Dio degli ebrei, non chiese una confessione di fede, ma gli ordinò semplicemente di tuffarsi nel fiume Giordano. Per Naaman tuffarsi nel fiume Giordano era un segno di fede più sicuro di un'ardita e calorosa confessione. Poiché l'Eterno Dio ha stipulato il patto con il popolo di Israele, qualcuno potrebbe anche pensare che non ci riguardi, ma dalle lettere di Paolo, il quale era ebreo, risulta chiaramente che il patto di Dio concerne non solo il popolo di Israele come nazione, ma anche tutti coloro che hanno la fede di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, cioè tutti coloro che hanno fatto di Cristo l'unico Dio, l'unico Salvatore e l'unica persona alla quale rivolgere preghiere. Tutti questi sono i veri discendenti di Abramo e appartenenti al popolo di Dio. Infatti Paolo, definendo chi sono i figli di Dio, scrive nella lettera ai Romani questa bella riflessione: non tutti quelli che sono di Israele sono Israele, e neppure perché sono progenie di Abramo sono tutti figli, ma in Isacco ti sarà nominata una progenie. Cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come progenie. Romani 8.68. E in merito all'appartenenza al popolo giudaico e alla circoncisione scrive: il giudeo non è colui che appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, e non nella lettera. Ed un tal giudeo la lode non proviene dagli uomini, ma da Dio. Romani 2.2829. Non a tutti risulta evidente che dei due popoli, cioè i giudei, e tutti gli altri popoli definiti gentili Gesù ne ha fatto uno solo. Ed ora chi pone fede in Cristo quale? Unico Salvatore, unico Signore, Maestro e unica persona da invocare diventa parte dell'unica famiglia di Dio. E a questa famiglia che Dio si rivolge, è con questa famiglia che Dio ha stipulato il nuovo patto. È questa famiglia che gode dei benefici del nuovo patto. Io appartengo a questa famiglia, come tutti coloro che sono diventati figli di Dio mediante un atto di fede in Cristo. Le sette conseguenze del nuovo patto che prenderemo in esame sono: 1. La legge di Dio sarà scritta nelle menti dei credenti. 2. La legge di Dio sarà scritta sui cuori di chi pone fede in Cristo. 3. Cristo promette che sarà il loro Dio. 4. Cristo promette che saranno il popolo di Dio. 5. Il credente è istruito direttamente da Dio. 6. Tutti conosceranno personalmente Cristo. 7. Dio in Cristo non si ricorderà più dei peccati dell'uomo. Con questa prospettiva chi non desidera conoscere? L.A. legge è scritta nella M.E. Nuovo Testamento è del crede Nuovo Testamento è. Una prima benedizione posseduta da chi riceve il nuovo patto è che la legge di Dio è scritta nelle menti dei credenti. Già di per sé, questa benedizione fa riflettere. Se i credenti di oggi, mediante il nuovo patto, hanno la legge scritta nelle loro menti, significa che quelli che sono vissuti sotto l'antico patto non l'avevano. Perché non l'avevano? Cosa hanno in più i credenti di oggi rispetto a quelli dell'Antico Testamento? Sono forse più intelligenti? Certamente no, ma una differenza ci è. Per comprenderla occorre leggere quello che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti che abitavano nella città di Corinto, ai quali aveva avuta la gioia di annunziare l'Evangelo e di vedere varie conversioni a Cristo. Anch'io, fratelli, quando venni da voi, non venni con eccellenza di parola o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Or noi parliamo di sapienza fra gli uomini immaturi, ma di una sapienza che non è di quest'età, né dei dominatori di quest'età che sono ridotti al nulla, ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di quest'età ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto? Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini, infatti, conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere poiché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo. Questa lunga lettura non è stata fatta così per caso, ma perché fosse possibile comprendere appieno il valore di ciò che stiamo dicendo. L'Apostolo Paolo inizia col dire ai Corinzi di aver predicato l'Evangelo non con una sapienza umana, ma divina. Infatti Paolo ai Corinzi non aveva esposto riflessioni moralistiche o ragionamenti filosofici come era uso ai suoi tempi e anche ai nostri, ma rivelazioni che aveva ricevuto direttamente da Dio stesso. Proprio perché le cose erano così, Paolo definisce i suoi discorsi la sapienza di Dio. Per parlare così del coraggio ce ne vuole. Basta molto poco, infatti, per smentire uno sbruffone che si arroghi il diritto di parlare da parte di Dio. Ma Paolo sapeva ciò che stava dicendo e lo ha dimostrato il fatto che dopo 2000 anni le sue parole rimangono in armonia con tutto il resto della rivelazione di Dio e nessuna persona seria ha potuto mai trovarvi delle menzogne. Questa sapienza di Dio, continua Paolo, è rivelata non a tutti, ma solamente a chi ama Dio più della sua stessa vita. E queste cose che Dio rivela, continua Paolo, sono cose che l'uomo non può assolutamente pensare e che assolutamente non ha mai visto né udito. Incredibile! Come può un uomo vedere, udire e pensare cose che non gli appartengono? E come promettere a un cane che un giorno sarà in grado di comprendere il pensiero dell'essere umano, di vedere e udire, come un uomo, ciò che fa e dice? Com'è possibile? Diventerà lui stesso un essere umano? No, di certo, perché allora non sarebbe più un cane. Perciò occorre compiere qualcosa meno come se fosse un trapianto, mediante il quale, anche rimanendo un cane, esso diventi uguale all'uomo. La domanda che Paolo pone e risponde viene incontro alla nostra ricerca. Chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Ecco la risposta al nostro interrogativo. Perché un cane possa comprendere un uomo deve solo possedere uno spirito come ha l'uomo. Ebbene, Dio ha agito nel cuore dei credenti nella stessa maniera. Perché potesse essere compreso, Dio ha messo nel credente il suo spirito. Paolo si è espresso così. Così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Stupendo, meraviglioso, il credente è un uomo al quale è stata trapiantata la natura di Dio. Com'è avvenuto questo trapianto o innesto? Mediante lo Spirito Santo. Paolo lo dichiara senza ombra di dubbio. Dio ha rivelato queste cose profonde a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. E poiché qualcuno potrebbe anche pensare di essere in grado di comprendere con la sua intelligenza la sapienza di Dio, per togliere ogni dubbio, Paolo specifica: or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. Abbiamo fatto attenzione, per l'uomo che non ha lo Spirito di Dio, cioè l'uomo naturale, è impossibile conoscere il pensiero di Dio, perché gli pare pazzia. Pazzia. Questo vocabolo si riferisce in modo specifico a ciò che appartiene alla mente, cioè ad un intelletto incapace di ragionare in modo sano. Perciò il pensiero umano e quello divino sono in aperta antitesi, non vi è nessuna cosa che li accomuni. Sono come l'acqua e il fuoco, e non come l'acqua e una aranciata o come una piastra ardente e il fuoco. Proprio per questa incompatibilità tra pensiero divino e pensiero umano, Paolo pone un'ultima domanda nella quale è già insita la risposta. Migliapo. Chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Nessuno, vero? La domanda non è posta da Paolo per dire che nessuno ha la mente del Signore, ma solo per far comprendere che nessuno è in grado di istruire Dio. Infatti la mente del Signore è proprietà anche dei credenti. Sembra una frase molto, davvero molto presuntuosa, ma lo abbiamo appena letto. Or noi abbiamo la mente di Cristo. O Paolo era pazzo, oppure il credente è in grado di conoscere pienamente Dio, Efe 1.18, a dispetto di una certa teologia sostenente che Dio sia incomprensibile, per quanto gli resti ovviamente impossibile giungere ora ad una conoscenza piena di Dio. Che benedizione! Cristo per me non è più sconosciuto perché sono in grado di comprendere ciò che dice, vedo ciò che fa, riesco ad udire la sua voce. E, forse poco? Ci pensiamo. Io essere umano limitato, imperfetto, complesso e complessato, ho niente meno che la mente di Cristo, e perciò di Dio. Nessun'altra creatura all'infuori dell'uomo, fatto ad immagine di Dio, ha un tale onore e privilegio. Io mi prostro, non so cosa fai o farai tu. Una cosa è certa, se non ti prostri per adorare, ti prostrerai comunque per ricevere il severo giudizio di Dio. A te la scelta. Le a legge è scritta nel cuore del crede Nuovo Testamento, e la seconda benedizione posseduta da chi riceve il Nuovo Patto consiste nell'avere la legge di Dio scritta sul suo cuore. Anche per comprendere appieno questa benedizione occorre tenere presente che l'ordine dell'Eterno Dio era quello di meditarla del continuo. Ecco, al riguardo uno dei comandamenti più significativi. Ascolta, Israele, l'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno è uno. Tu amerai dunque Eterno il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore e inculcherai ai tuoi figli. Ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi. Le legherai come un segno alla mano, saranno come fasce tra gli occhi, e le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Da 6.49. Dunque, per l'ebreo, la legge dell'Eterno doveva essere oggetto di conversazione in qualsiasi momento, non solo ad una certa ora fissa della giornata, ma al mattino, alla sera, quando era seduto e addirittura anche quando camminava per la strada. Il genitore, poi, aveva il compito di inculcare, cioè di imprimere, come imprime uno stampo su di un foglio, la legge di Dio nella mente del fanciullo. E come se questo non bastasse meno, e non bastava, meno il credente ebreo doveva scrivere sugli stipiti e sulla porta stessa la legge data sul monte Sinai. Quando in seguito l'Eterno Dio mandò il condottiero Giosuè a conquistare la terra promessa, la prima cosa che gli disse fu: «Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro». Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha prescritto. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto. Perché? Allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Giosuè 1.68. Nell'incoraggiare Giosuè, l'Eterno gli disse di leggere giorno e notte la legge, perché solo così sarebbe prosperato. Fa coro a questo il libro dei Salmi, che vede la beatitudine, cioè la felicità, per chi medita giorno e notte sulla legge di Dio, traendo in questo modo profitto in tutto quello che fa. Forse nessuna nazione ha dato tanto valore alla propria legge come il popolo d'Israele. Eppure questa legge non era scritta nel loro cuore. Sì, la conoscevano anche a memoria, ma era una verità distaccata da loro. È come se io studiassi e imparassi tutto sull'alpinismo, non avendolo mai praticato, pur conoscendone ogni particolare e sapendo tutto a memoria, esso rimarrebbe una verità distaccata dalla mia esperienza. Così era per i credenti sotto l'antico patto, avevano una conoscenza, ma che restava esteriore al loro essere. Ecco dunque la preziosa e grandissima benedizione di chi riceve il nuovo patto. La legge di Dio diventa parte del suo essere. Ma com'è possibile questo? Forse perché leggono di più la parola di Dio, forse perché hanno più fede dei credenti che li hanno preceduti. Niente di tutto questo, unicamente perché è un'opera esclusiva di Dio. Come ha potuto Dio mettere la sua legge nei cuori dei propri figli che hanno accettato il nuovo patto? Semplicemente mediante la sostituzione del loro cuore. Portavoce di questa magnifica verità è il profeta Ezechiele, e io darò loro un altro cuore e metterò dentro di loro un nuovo spirito. Toglierò via dalla loro carne il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, perché camminino nei miei statuti e osservino le mie leggi e le mettano in pratica. Allora essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Ezechiele 11:19-36:26. Ciò che è terreno rimane terreno. Perciò l'Eterno Dio non ha cercato in nessun modo di migliorare il cuore di carne, cioè la natura umana corrotta. Ha provveduto però a trasformare completamente ciò che è umano, limitato e corrotto. Come avviene questa trasformazione? Unicamente mediante la nuova nascita. Gesù lo ha rivelato in modo chiaro e, non a caso, rivolgendosi ad un dottore della legge, che di legge ne sapeva, ma senza averla scritta nel cuore. In verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E a questo punto che Nicodemo, il dottore della legge, chiede: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? E Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Hai notato cosa ha detto Gesù a Nicodemo? Non meravigliarti! Per molto tempo mi sono chiesto perché Gesù ha detto a Nicodemo di non meravigliarsi se aveva parlato di nuova nascita, ma oggi, considerando il nuovo patto, sono io che mi stupisco di non aver capito. Dunque, il credente che accetta il nuovo patto non solo ha una mente rinnovata, ma anche un cuore nuovo, una natura divina. Questa verità balza in tutte le lettere degli Apostoli, ma sfugge se non si fa attenzione. L'Apostolo Pietro attesta che il credente è stato fatto partecipe della natura divina. 2 Pt. 1:4. Mentre Paolo, nel considerare la vita cristiana, dà questo ordine ai credenti: ora io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. Ga 5:16-17. Secondo la parola di Dio, il credente nato di nuovo è l'unica creatura nella quale dimorano due diverse nature, una umana e una divina. Qualcuno potrebbe anche obiettare davanti a questa conclusione, ma l'Apostolo Paolo ha fatto un ragionamento molto disarmante. Lo Spirito di Dio spinge il credente ad osservare la legge, mentre la natura umana corrotta non vuole saperne, perciò il credente non si trova libero di fare ciò che vorrebbe fare. Se vuole peccare non è libero perché lo Spirito di Dio glielo vuole impedire. Se invece vuole camminare per lo Spirito, la natura umana corrotta cerca di frenarlo. Ecco il vantaggio di avere un cuore nuovo. Quando il credente trasgredisce la legge di Dio, lo Spirito Santo usa la legge per riprenderlo. Questo aspetto dovrebbe farci riflettere sul nostro comportamento. Spesso in preghiera e nei canti si chiede a Dio di ricevere lo Spirito e un cuore nuovo, pensando, così, di porsi in armonia con la preghiera di Davide espressa nel Salmo 51. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. 51:10. La preghiera di Davide è più che giusta, perché egli era sotto all'antico patto, ma non ha valore per il credente di oggi. È come se oggi noi offrissimo ancora sacrifici per i peccati, oppure chiedessimo ancora la riconciliazione con Dio, quando questa è avvenuta 2000 anni fa. Chi vive all'insegna del nuovo patto si guarderà bene dal comportarsi come gli appartenenti all'antico patto, gioirà invece delle benedizioni che già possiede. Questo è uno dei migliori modi per dare gloria a Dio. Cristo dive nuovo testamento a Dio per chi pone fede in Lui. Una terza benedizione posseduta da chi riceve il nuovo patto è che Cristo sarà il suo Dio. Da un certo punto di vista non sembra nulla di particolare, soprattutto in una nazione la cui popolazione si ritiene cristiana, Ma ad un attento esame, questa benedizione, meno se presa sul serio, rivoluziona non solo la vita di una persona, ma anche una nazione intera. Anche in questo caso occorre partire da un presupposto, identificando chi ha fatto la promessa. E, fuor di dubbio che a stipulare il patto e fare la promessa, sia stata la divinità di Israele, una divinità rivelatasi con il nome proprio Yahweh, così come afferma anche il dizionario biblico edito G.B.U. Cosa comporta questo nella pratica? Comporta che mentre i cananei adoravano come Dio supremo El, padre di tutti gli dei, sua moglie, Astante, Baal, il più importante tra gli dei, e gli ammoniti adoravano Moloch, offrendogli mostruosi sacrifici di bambini arsi vivi. Mentre i babilonesi adoravano Bel, la dea della fecondità Ishtar, e Nebo, dio della sapienza, gli ebrei adoravano una divinità chiamandola con un nome dato da lei stessa, ossia Yahweh, come oggi. Ogni popolo ha la sua divinità, i musulmani lo chiamano Allah. I buddhisti pregano Buddha, anche se il buddismo non è una religione ma una filosofia. I seguaci della torre di guardia pregano Geova. Gli ebrei di oggi pregano e adorano un Dio del quale non possono pronunciare il nome ritenuto troppo sacro. È così che occorre comprendere la fede degli ebrei dalla stipulazione dell'antico patto fino alla venuta di Cristo. E, dopo il passaggio del Mar Rosso, o mare dei giunchi, che Yahweh si arroga il diritto di essere la sola divinità, l'unica del popolo di Israele. Anche se, in seguito, il popolo ha dato al suo Dio alcuni nomi di altre divinità, come Baal, cioè Padre mio. Il punto da chiarire è l'identità di questo Yahweh che ha parlato ai patriarchi, che ha ispirato i profeti, che è stato visto e toccato. Secondo la scrittura e le parole proferite da Gesù, Yahweh non è una semplice scritta, ma una persona, ossia Cristo. In genere i teologi pensano che il tetragramma, Yahweh, sia una scritta definente la Trinità cristiana, ma è un errore che sminuisce il valore dell'opera di Cristo e del patto che egli ha stipulato con il popolo di Israele. Una cosa è certa, Cristo è Dio che il Padre ha mandato, e tutto quello che ha a che fare con la persona del Padre e la Trinità deve per forza passare da Cristo. Gesù lo ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. G.V. 14.6. Così gli israeliti, senza saperlo, invocavano Cristo, pregavano Cristo, avevano stipulato un patto con Cristo. Ecco perché, quando assunse un corpo mediante Maria Vergine, poté dire con un cuore spezzato, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. LC 13.34. Quante volte Gesù ha voluto? Quando si potrebbe chiedere? Gesù ha svolto un ministero di soli 3 anni. Evidentemente Gesù Cristo si riferiva ai tempi passati, quando era con il popolo di Israele nel deserto e anche dopo. Così la promessa del nuovo patto si è focalizzata è che Cristo diventa il Dio di tutti quelli che pongono fede in Lui. L'Apostolo Giovanni termina proprio la sua prima lettera in questo modo. Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero, e noi siamo nel vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. 1 GV 5.20. Forse si è dato poca importanza allo scritto di Giovanni, per cui in pochi hanno colto questa inequivocabile affermazione relativa alla divinità di Gesù. Giovanni ha scritto che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento, secondo la promessa del nuovo patto, per conoscere colui che è il vero. Poi continua affermando che il vero Dio è Gesù Cristo. In definitiva, Cristo Gesù è venuto per far conoscere se stesso e tutta la Trinità. Non tutti interpretano in questo modo, ma Lutero e Calvino adottarono questa interpretazione, che del resto è in armonia con tutta la scrittura. Dunque Gesù, assieme al Padre e allo Spirito Santo, è il Dio dei cristiani. Ricordo ancora piacevolmente quella riunione di studio biblico quando chiesi se per i musulmani il loro Dio è Allah, se per i seguaci della torre di guardia è Geova, chi è il Dio dei cristiani? I presenti si guardarono l'un l'altro smarriti senza rispondere. Che domanda! Il Dio dei cristiani è Dio? No, è vero, ma se non si ha prima Cristo come Dio non si può credere né accedere al Dio Trino. Chi ha compreso questo? Cosa comporta avere Cristo come Dio? Innanzitutto non si può avere altro Dio o altra divinità all'infuori di Lui. Questo è il comandamento che precede tutti gli altri e, non ritenendo Gesù come il proprio Dio personale, qualsiasi cosa si faccia di bene, come non rubare, non uccidere, non commettere adulterio, non ha nessun valore agli occhi del Dio Trino. Comportarsi bene è una caratteristica dei religiosi devoti a una divinità che non sente, non ode e non interviene, perciò niente di straordinario. Si tratta infatti solo di moralismo. Ma chi ha Cristo come proprio Dio? Qualsiasi cosa faccia lo compie come atto di riconoscenza a Lui. Questa è la differenza tra il religioso e il cristiano. Inoltre, avere Cristo come unico Dio comporta che ogni preghiera e richiesta fatta al Dio Trino è rivolta solo e unicamente tramite Cristo. Eppure, pochi lo hanno capito. Beh, diciamolo chiaramente, non lo hanno capito quelli che non hanno fatto di Cristo il solo ed unico Dio. Perché questa conclusione? Per una semplice constatazione. Un musulmano pregherebbe o si inginocchierebbe davanti a Maria o qualche altra persona? Assolutamente no, perché crede in un solo Dio e solo a Lui rende il suo culto. Come mai, allora, si pregano Maria e i santi davanti alle cui statue e immagini ci si inginocchia in segno di venerazione? Dove si trova nella parola di Dio un solo ordine di rivolgere preghiere o inginocchiarsi davanti a qualsiasi cosa o persona? Non sta forse scritto: vi è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo? Un Terametro 2.5. Gesù non disse al diavolo di rendere il culto solo a Dio? D 4.10. Perché? Allora si ritengono altri mediatori tra Dio e gli uomini? Certo, uno può fare un lungo ragionamento e voler dimostrare con la Bibbia il suo punto di vista contrario, ma con la Bibbia è possibile trarre qualsiasi conclusione. Pochi tengono presente che le eresie sono tratte dalla Bibbia. Perciò, se è scritto che vi è un solo mediatore, io non ho nessun diritto di dire che per accedere a Dio occorrono più mediatori. Chi prega il Dio Trino senza l'unico mediatore Cristo Gesù, di fatto invoca il diavolo. Ecco perché la promessa che si sta attuando nel credente di avere come unico Dio Cristo e in Lui anche il Padre e lo Spirito Santo può rivoluzionare la vita di una persona e una società. Per quanto mi riguarda, dal maggio del 1964, cioè dal giorno che ho ricevuto Gesù come il mio unico Dio, io non ho mai più rivolto preghiere a nessun altro, se non a Lui. Per un giardiniere amare i fiori non è abbastanza. Deve anche odiare le erbacce. Se i religiosi comprendessero questo e lo accettassero, il popolo italiano diventerebbe cristiano. Ci è forse una prospettiva migliore? Il crede Nuovo Testamento e fa parte del popolo di Dio. Una quarta benedizione per chi è partecipe del nuovo patto è l'entrare a far parte del popolo di Dio. Anche questa benedizione è comprensibile se si conoscono i progetti di Dio antecedenti al nuovo patto. Da quando Cristo creò il primo uomo fino all'epoca di Abramo, cioè circa 2000 anni, prima della nascita di Gesù, nessuna nazione o razza era stata scelta da Dio per un compito particolare. Solo con la chiamata rivolta ad Abramo, figlio di Terà, l'Eterno Dio decise di scegliersi una razza, facendola sua, per benedire tutte le famiglie della terra. Ge 12.3. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò 12 figli dai quali sorse il popolo di Israele. Dopo la liberazione dalla schiavitù di Egitto, gli israeliti divennero il popolo peculiare dell'Eterno Dio, stipulando con Lui un patto del quale si impegnavano a osservare i comandamenti per poter così diventare uno strumento per testimoniare ai popoli, che adoravano diverse divinità, l'esistenza di un solo Dio e un solo Signore. Il popolo di Israele non mantenne fede al patto, ignorò la legge e ripudiò il bene. Osea 8.1.3. Per l'Eterno divenne il popolo della sua ira. Is 10.6. Prese ad odiarli. Os 9.1.5. Decise di fargli del male. Ez 8.2.4. E di metterlo da parte per formarsi un altro popolo. Is 43.2.1. E quanto spiega l'Apostolo Paolo scrivendo a dei credenti in Cristo non giudei. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambedue con Dio in un sol corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, e Malefè 2.1320. Dunque chi non faceva parte del popolo di Israele era lontano dal nuovo patto con Dio, mentre gli israeliti, anche se erano vicini, non ne facevano ancora parte, così Dio nella sua sapienza dei due popoli ne ha fatto uno. Come ha potuto Dio fare un solo popolo di israeliti con quelli che non lo sono? Ha forse cambiato qualche legge? E, venuto meno ai suoi principi? Tutt'altro. Proprio in armonia con i suoi principi. Proprio perché era nei suoi programmi. Proprio perché lo aveva promesso ad Abramo, mettendo da parte ciò che potevano avere di buono i due popoli, ha dato loro lo Spirito Santo, con una funzione nuova mediante la quale sono introdotti nella Chiesa, che è il popolo di Dio. Infatti, nella Chiesa di Dio, quella vera meno, entrano tutti quelli che realizzano la nuova nascita e per questo diventano di conseguenza figli di Dio. Purtroppo pochi hanno compreso questo bellissimo progetto che la Trinità ha stabilito nella sua sapienza e volontà, cioè quello di creare un solo popolo tra i popoli, di V. 17.21, un regno tra i regni, di V. 3.3, un popolo che non diventa tale per nascita o adozione, ma perché dotato di un mente nuova, di un cuore nuovo, in grado di comprendere e amare la volontà di Dio, capace di sottomettersi completamente a Cristo quale re e glorificarlo nel suo regno. Un popolo è un regno straordinario, un regno che non sarà mai sottomesso a nessun altro regno. Un regno che frantumerà tutti gli altri regni e sussisterà in eterno, da 2.44. Ne è stato dato un piccolo cenno alla sua nascita. Per mantenere la parabola del profeta Ezechiele rivolta a Gerusalemme, potremmo dire che il giorno in cui nacque nessun occhio ebbe alcun riguardo alla Chiesa, fu invece gettata in aperta campagna, per la ripugnanza che avevano nei suoi confronti. 16.15. In effetti, i primi cristiani furono ben presto perseguitati, assassinati, disprezzati, e Dio, tenendo sempre presente le parole del profeta Ezechiele, disse: «Io ti passai vicino, vidi che ti dibattevi nel sangue, e ti dissi mentre eri nel tuo sangue, vivi». Sì, ti dissi. 16.2. Sì. Da allora in poi i cristiani come popolo di Dio hanno subito per secoli e secoli le più feroci persecuzioni. Ma ancora oggi sono più che mai ferventi e ostinati testimoni dell'amore e della grazia di Dio. Il popolo di Dio è indistruttibile, ed io sono fiero di farne parte. Agli increduli basterebbe solo una osservazione. Quanti popoli dell'antichità sono stati vinti e distrutti? A il popolo di Dio non è stato e non sarà mai distrutto. Alleluia! Poiché molti si arrogano il diritto di appartenere al popolo di Dio, è opportuno fare alcune precisazioni che non sarebbero necessarie, ma purtroppo più passa il tempo più mi rendo conto come sia impossibile ad un popolo meno e quindi alle singole persone cambiare i propri costumi, religiosi e non, giusti o cattivi che siano. non avrei dovuto impiegare molto tempo per comprendere questo aspetto, perché il profeta Geremia chiese 2700 anni prima di Cristo: ha mai una nazione cambiato i suoi dei anche se non sono dei? Ger 2.11. La risposta è no. Così, dove il cattolicesimo romano ha imposto la sua morale, come in Italia, certi inviti a cambiare opinione in merito alla fede sembrano cadere nel vuoto, ma siano rese grazie a Dio, perché ancora oggi accade il miracolo. E ancora ci è chi accetta la convinzione di peccato da parte dello Spirito Santo e, ricevendo il perdono di Dio già offerto in Cristo, vive proclamando che i suoi peccati sono già stati tutti perdonati ed è certo della salvezza eterna. Nessun peccato potrà mai separarlo dall'amore di Dio e con gioia rifiuta ogni cerimoniale liturgico che ha la pretesa di rinnovare il sacrificio di Cristo per il perdono dei peccati. Così, anche se sembra superfluo, è necessario annunciare che fanno parte del popolo di Dio solo coloro che hanno realizzato una nuova nascita mediante un atto di fede consapevole in Cristo. Gesù lo ha detto chiaramente. In verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Gv 3.56. E, risaputo che C è chi vede nell'acqua il rito battesimale, ma questa interpretazione si rifà in parte ancora all'antico patto, quando l'acqua aveva la possibilità di purificare animali e persone. Ma con l'abolizione del rituale ebraico anche l'aspetto purificatore è annullato. Secondo la Bibbia l'acqua rappresenta la parola di Dio, cosicché Gesù ha detto che chi non è stato rigenerato dalla parola di Dio e dallo Spirito Santo non può entrare nel regno di Dio, né di conseguenza far parte del popolo che Dio si è acquistato con il suo sangue. Ne dà prova Paolo stesso, affermando che Cristo non lo aveva mandato a battezzare. Non fa riflettere questa affermazione? Così chi ha posto la vera fede nell'opera sufficiente di Cristo si rallegri, perché verame Nuovo Testamento e fa parte del popolo di Dio. Cosa aspettarsi di più? Ogni crede Nuovo Testamento è istruito direttamente Nuovo Testamento e da Dio. Un'altra grandissima benedizione che riceve chi entra a far parte del nuovo patto è che nessun fratello lo istruirà, ma sarà ammaestrato direttamente da Dio. Una promessa che certamente deve essere capita nel suo contesto, perché fin da bambini si viene istruiti da tutti. Dai genitori e parenti, dai maestri e professori, dagli studiosi con i loro libri, da amici, dai colleghi sul lavoro, dalla televisione mediante programmi istruttivi e perfino dagli animali con il loro modo di vivere. PR 6.6. Ma l'istruzione della quale parla il Dio di Israele non è riferita alle cose umane di questa vita, ma a ciò che lo riguarda e al campo spirituale. Proprio perché Yahweh, il Dio di Israele, ci tiene a farsi conoscere dall'uomo, al tempo di Mosè aveva istituito degli uomini perché insegnassero la legge da lui emanata e di conseguenza anche parte del suo carattere. Quando l'Eterno disse «Siate santi perché io sono santo», voleva proprio dire questo. «Se io vi comando di comportarvi in un certo modo, è perché io mi comporto così». Stupendo! Meraviglioso, così, il popolo di Israele aveva una casta di persone, cioè, i sacerdoti meno il cui compito era insegnare a tutti la volontà di Dio. La cosa funzionò bene all'inizio, ma, con il passare del tempo, i sacerdoti si corruppero per denaro e per una falsa vanagloria, cosicché insegnarono cose sbagliate a loro interesse. Per questo l'Eterno, il geloso, Es 34.14, chiese conto delle loro colpe, Amos 3.2, mise da parte la loro mansione, li rifiutò come portavoce della sua volontà e, nello stabilire un nuovo patto, istituì pure meno con coloro che pongono fede in lui un nuovo modo di comunicare, rendendo loro possibile avere un dialogo diretto con lui, eccezionale più che meraviglioso, ma quando mai abbiamo fatta l'esperienza che Dio ci parla direttamente, Sentiamo forse una voce dal cielo che ci dice quello che dobbiamo fare? O forse nella nostra cameretta sentiamo delle parole alle orecchie che ci sussurrano ciò che è bene e ciò che è male? Non credo proprio che i credenti in Cristo facciano questa esperienza, anche perché io che ho posto una fede sincera in Gesù non ho mai udito nessuna parola scendere dal cielo. Né nella mia cameretta, come neppure quando mi trovo riunito assieme all'assemblea alla quale appartengo. Come allora comprendere questa benedizione rivolta a chi entra a far parte del nuovo patto? È molto raro, se non impossibile, che una promessa fatta per il nuovo patto non scaturisca dall'antico patto, perché nel dare le sue leggi e nel formulare le sue promesse, l'Eterno non si limitava solo a riferirsi al presente, ma molte assicurazioni avevano anche una visione relativa a un futuro molto lontano. Né la dispersione del popolo di Israele tra le nazioni vicine. Una promessa di Dio riguardava il ritorno del popolo nel suo territorio, cosa che infatti si verificò puntualmente. Leggendo tuttavia queste profezie dopo circa 3.000 anni, si comprende che tali rivelazioni erano riferite anche al più recente ritorno degli ebrei in Palestina durante il secolo appena trascorso. Allo stesso modo, la promessa profezia che il credente sarebbe stato istruito da Dio ha trovato la sua piena collocazione dopo la morte e resurrezione di Cristo. Dove troviamo scritto nell'antico patto che tutti saranno ammaestrati da Dio? Ne abbiamo un accenno nel libro del profeta Isaia. Tutti i tuoi figli saranno ammaestrati dall'Eterno e grande sarà la pace dei tuoi figli. Isaia 54.1013. Questa promessa calata nella realtà del popolo ebraico ha un significato didattico non indifferente. Se pensiamo che l'ordine dell'Eterno era quello di inculcare nel fanciullo la legge e la sapienza della vita, se pensiamo che un bambino a 12 anni veniva istruito per conoscere buona parte della parola di Dio a memoria, in che cosa consiste la promessa dell'Eterno che tutti i figli, e cioè ogni persona, sarebbero stati istruiti direttamente da Lui? Se istruivano i genitori, se i sacerdoti avevano il compito di insegnare la legge, come possiamo intendere che era l'Eterno a ammaestrare? Ciò che sta di fronte ai nostri occhi è talmente evidente e quotidiano da sfuggire alla nostra attenzione. Da chi trae il bambino la capacità di apprendere le cose della vita? Chi gli insegna a parlare? I genitori, si risponderà. Ma come potrebbe imparare un bambino a parlare se non avesse già un programma inserito nel cervello? Come un computer. Per poterlo usare occorre che qualcuno abbia già inserito un programma mediante il quale si possono svolgere le altre operazioni. Chi allora ha inserito un programma nel cervello del bambino fin dal suo concepimento? Il Big Bang? Madre Natura? Mi viene da ridere davanti a chi la pensa così, perché la risposta è una sola. È stato l'Eterno, il Creatore, che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, come disse Gesù. L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Giovanni 3.27. Anche Agostino di Ippona, nel libro Le Confessioni, riconosce che solo Dio istruisce l'uomo. Come abbia fatto ad imparare a parlare, l'ho capito più tardi. Non erano gli adulti che mi istruivano, insegnandomi le parole secondo un metodo preciso, come fecero dopo qualche tempo per insegnarmi a leggere e scrivere, ma ero io stesso, con l'intelligenza che tu, o mio Dio, mi avevi data, che con piagnucoli, strilli e gesti vari cercavo di manifestare i sentimenti del mio cuore perché così si facesse quello che io volevo, se non che non riuscivo a farmi intendere in tutto e da tutti. Cercavo di ricordare quando gli altri chiamavano una cosa con un nome e poi si muovevano verso la cosa che evidentemente esse avevano inteso designare, osservavo e mi imprimevo nella memoria che quella determinata cosa era da loro chiamata in un determinato modo quando volevano designarla. Qualcuno potrebbe obiettare che queste cose si riferiscono all'ambito umano, ma non insegna forse l'uomo anche per ciò che è spirituale? Gesù non fa nessuna differenza. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno ammaestrati da Dio. Ogni uomo dunque che ha udito e imparato dal Padre, viene a me. Giovanni 6, 41-46. Secondo Gesù, nessuno pensi di provare qualsiasi sentimento religioso nei confronti di Cristo di sua spontanea volontà, né tantomeno di farlo per merito di qualche persona religiosa, ma solamente perché viene istruito e attirato da Dio. E la prova che sia il diottrino ad attirarlo o ammaestrarlo sta nel suo istintivo rivolgersi a Cristo, sapendo che è la verità. Ogni altro obiettivo al quale l'uomo si rivolgerà è la prova che uno spirito non buono lo sta attirando a sé. E poiché c'è un solo Dio e un solo avversario, cioè il diavolo, chi non si rivolge a Cristo, per forza di cose si rivolge al diavolo. Se coloro che sono religiosi prendessero sul serio questa verità, l'era del XXI secolo è caratterizzata dall'adempimento di una profezia del profeta Geremia nei confronti dei credenti, alla quale occorre dare la dovuta attenzione. Non insegneranno più ciascuno il proprio vicino né ciascuno il proprio fratello, dicendo: «Conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande», dice l'Eterno, «poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Conosci tu personalmente Gesù Cristo? Cristo è il tuo unico Maestro? Puoi tu dire che Gesù è il tuo unico Dio?» Dopo queste promesse, chi non desidera entrare a far parte del nuovo patto? Restarne fuori è una pazzia. Tutti i crede Nuovo Testamento conoscono Personal M e Nuovo Testamento e Cristo. Una sesta benedizione elargita a chi è sotto al nuovo patto è di conoscere personalmente Cristo. Conoscere Cristo. Non si può pensare seriamente a una simile benedizione senza provare un sussulto di emozione unito ad un santo timore riverenziale. Conoscere Gesù Cristo significa conoscere niente meno che Dio, e com'è possibile rimanere impassibili in questa esperienza? Di tanto in tanto mia madre mi racconta un episodio con una solennità particolare, riferito ad un suo incontro avuto con un personaggio della politica che lei stima oltre misura. Era andata a vederlo. E per un caso fortuito la sua mano ha toccato la mano del politico. Non fosse mai successo. Mi ha raccontato che un brivido le è passato per tutto il corpo, che una gioia particolare ha invaso la sua anima. E, ancora oggi, meno dopo tanti anni, meno ne parla con un entusiasmo unico. Aveva appena visto e toccato un uomo politico. Che dire allora di chi conosce Cristo, figlio di Dio in quanto a relazione? Eppure Dio stesso in quanto a natura. Ma, si dirà, un politico lo puoi vedere e toccare, invece Cristo Gesù, no? Ebbene, poiché non si è sempre in grado di comprendere ciò che si legge e anche le promesse di Dio, è opportuno addentrarci nell'assicurazione espressa da Dio di conoscere personalmente Cristo. Per prima cosa occorre comprendere il significato del termine conoscere, attingendolo necessariamente dalla cultura ebraica, non potendo dare alle parole ebraiche un significato greco. Per gli ebrei il termine conoscere dispone di una vasta gamma di significati, il primo dei quali è la percezione che l'uomo ha mediante i sensi di oggetti e situazioni del suo mondo, entrando in rapporto con essi, in base all'esperienza, dizionario teologico dell'Antico Testamento Marietti. Questo primo aspetto mette in evidenza che il termine conoscere non ha a che fare solo con una semplice conoscenza intellettuale, come per esempio il sapere che è avvenuto un terremoto in Giappone, ma sono quei processi conoscitivi dalla percezione più elementare fino a quel conoscere, possibile soltanto in un rapporto personale completo. Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento EDB, rapporti che permettono di essere convinti di un'altra realtà, quanto la nostra. Proprio per questo, il verbo conoscere viene usato sia per un'esperienza sessuale tra individui, sia per un'esperienza personale con Dio tramite Cristo. Da ciò si evince che, come non è un approccio puramente intellettuale il rapporto sessuale, non lo è neppure l'esperienza di conoscere Cristo Gesù. Se l'uomo sotto il nuovo patto può conoscere personalmente Cristo, significa che nell'antico patto il credente non lo conosceva. E inoltre che tutti gli uomini, per quanto siano buoni o religiosi, e per quanto le preghino o lo invochino nelle difficoltà, invocano e pregano qualcuno a loro sconosciuto. Gesù disse alla Samaritana, «Voi adorate quello che non conoscete». GV 4.22 E, come se io pregassi, una delle divinità del Jainismo, una religione dell'India, delle quali non ho mai fatto, nessuna esperienza personale è completa. E, in questo modo che milioni di persone che si definiscono cristiane pregano Gesù. Per loro è una figura religiosa tra le tante altre, come Maria, se Gennaro o Padre Pio, e se lo ritengono anche il figlio di Dio rimane soltanto una figura alla quale rendere un atto religioso, compiuto il proprio dovere cerimoniale, ciò che Gesù ha insegnato, non influenza per nulla il loro percorso terreno, perché hanno abbracciato una religione anziché una persona. Ma chi conosce Cristo ha fatto l'esperienza a volte traumatica di riconoscersi con angoscia e terrore un peccatore perduto, degno solo di essere condannato per l'eternità nella perdizione eterna. Ha constatato la terribile realtà che nulla lo può aiutare per evitare tale fine. E, a un passo dalla disperazione più totale, con un ultimo gesto di autoconservazione ha rivolto l'attenzione al messaggio del vero Vangelo. Ha creduto che solo Cristo può salvarlo dalla perdizione più che certa. Lo ha pienamente accettato, deponendo in Cristo la totale fiducia. O Cristo lo salva, o per lui questo processo può avvenire in pochi secondi come in poche ore o in pochi giorni. Ma dopo un'esperienza del genere, dopo aver vissuto un rapporto personale completo con Cristo, il credente non è più lo stesso, come non sono più gli stessi coloro che hanno avuto il primo rapporto sessuale. Chi conosce personalmente Cristo parla del suo Salvatore, forse con le stesse parole di prima, ma esse per lui hanno ora un contenuto pratico. E come un celibe che spiegasse come educare i figli, diventando tuttavia genitore a sua volta, il suo parlare può anche non subire tante modifiche, ma certamente i verbi sopportare, educare, pazientare, amare assumeranno un contenuto pratico facilmente coglibile all'orecchio attento di chi lo ascolta. Su questa linea, è difficile comprendere come un sacerdote cattolico che non si può sposare possa istruire sposi e genitori sul loro compito, ma tutto è in armonia con una loro conoscenza di Cristo puramente intellettuale. Perché queste riflessioni non rimangano teoriche, desidero testimoniare di come ho conosciuto Cristo. All'età di circa 20 anni, una sera, tornando a casa da uno spettacolo cinematografico, alzai gli occhi al cielo e pregai: «Oh Signore, se tu stasera mi offrissi qualunque cosa, io ti chiederei di darmi sapienza. Io desidero conoscerti, desidero capire la vita che sto vivendo, NIE, Nuovo Testamento e altro». Poco tempo dopo, frequentai delle persone che leggevano la Bibbia e nel mio cuore, pian piano, avvertivo come una voce sussurrarmi: «Sei un ipocrita. Vuoi tenere il piede in due staffe? O vivi per Dio, o vivi a modo tuo». Queste parole mi colpivano profondamente perché sic è un atteggiamento che non sopporto alla doppiezza. Contemporaneamente avvertivo un'altra voce che mi diceva: «Ma no, è ancora presto. Sei giovane e hai una vita davanti a te, aspetta». Ma la prima voce non mi lasciava in pace. Al punto che una sera, dopo il lavoro, mi chiusi in camera, mi inginocchiai e dissi: «Signore, io vorrei credere, ma sono giovane. Se affido la mia vita a te, come sarà il futuro?» Mi misi a piangere, perché volevo credere, ma non volevo pagarne il prezzo. Il giorno dopo, terminato il lavoro, tornai a chiudermi nella mia camera, mi misi in ginocchio e dissi: «Signore, io vorrei credere, ma non capisco tante cose. Se capisco dopo sarò disposto a credere». Ma la voce mi sussurrava: «Credi, dopo capirai». Piangevo. Volevo credere, però in me c'erano ancora dei ma. Il terzo giorno, ormai sfinito da questa lotta interiore, dopo aver chiuso a chiave la camera, mi inginocchiai e, piangendo, pregai: «Oh Signore, io voglio vivere per te, ma che ne sarà di me?» E lo Spirito di Dio mi fermava dicendomi: «Credi senza riserve, senza condizioni. Cedi la tua vita a me. Il tuo futuro, la tua gioventù, la tua intelligenza, la tua volontà, tutto deve essere mio. O vivi per Dio, o vivi a modo tuo». In me si era scatenata una tempesta. Pensavo, ragionavo, cercavo di comprendere, ma mi rendevo conto che stavo per impazzire con quella strana, meravigliosa confusione. Quando ormai sfinito giunsi veramente al limite della pazzia, pronunciai un'ultima preghiera. Mio Dio, sono stanco. Prendi la mia vita. Fanne quello che vuoi. Da oggi in poi non è più mia, ma tua. Metto il futuro nelle tue mani. Non capisco tutto, ma ti accetto come il padrone della mia vita. Immediatamente la pace divina scese nel profondo del mio cuore, nella mia mente, nel mio corpo. Quel giorno non si era convertito un ateo incallito, ma un credente che viveva la vita a modo suo. Vivevo secondo i parametri religiosi miei e di chi mi aveva insegnato. Dio era un ospite nella mia vita, ma non il padrone della mia volontà. Vivevo senza l'autorità di Dio e, se fossi morto, sarei andato in un luogo dove la sua presenza e il suo amore non avrebbero potuto raggiungermi. Religioso e senza Dio in questa vita, sarei rimasto tale per l'eternità. Così conobbi personalmente Cristo, entrando a far parte del nuovo patto, dove ci è posto anche per te. Dio in Cristo non sei, ricorda pie i te cantico testamentui dei crede nuovo testamentui. Una settima benedizione che riceve chi è sotto al nuovo patto è che Dio in Cristo non si ricorderà più dei peccati del credente. In una società come quella di oggi parlare di peccato forse non fa poi tanto effetto, sia per chi essa è diventata materialistica, cioè interessata solo a ciò che trae profitto dalle cose terrene come il denaro e il successo, poi perché il peccato per gli uomini del XXI secolo è solo una parola senza nessun valore morale, avendo rigettata la legge di Dio per adeguarsi alla propria o a quella della società, l'uomo religioso e non meno non ha più nessun punto fermo assoluto al quale guardare, per cui ciò che una volta si riteneva peccato meno o sbagliato meno oggi, non lo è più. E viceversa, ci sono atti e parole che oggi si ritengono sbagliate, ma che fra qualche anno verranno ritenute giuste. Ho vissuto abbastanza per vedere questa evoluzione di pensiero. Se quando ero giovane era scandaloso per dei genitori che i loro figli avessero rapporti sessuali fuori del matrimonio, oggi invece gli stessi accolgono sotto il loro tetto figli e figlie con i loro compagni, riservando loro una camera con un comodo letto. A nulla servono le riprensioni moralistiche perché la società non vive in base ad una legge eterna e immutabile, ma, come si è detto, sulla legge che si fonda su un'etica che muta sull'onda dello scorrere del tempo. Così l'uomo al massimo può arrivare a provare un senso di colpa, scaturito da un proprio comportamento non conforme alla morale comune, ma la convinzione di peccato è una esperienza rara e lontana. Come indurre allora le persone ad avere la consapevolezza del peccato? Parlare della legge, la legge di Dio. Infatti, se non vi è legge non vi è neppure la trasgressione. Come può uno trasgredire un codice stradale se non vi è nessuna normativa? Se vi è il divieto di superare i 50 chilometri e io li supero, allora sono trasgressore, colpevole, mancante. Diversamente, su quella strada posso andare anche più forte. Perciò, il mio modo di guidare è condizionato dal regolamento stradale. Così, che si voglia o no, il mio agire e il mio parlare deve essere condizionato dalla legge o dal regolamento che il Creatore ha stabilito per vivere e convivere. Va da sé che l'uomo nel rifiutare la legge divina ed eterna non rifiuta tanto una normativa in sé, ma chi l'ha data. Cioè Dio, tramite Gesù Cristo. Solo questa è una trasgressione grave, che la Bibbia chiama peccantico testamento o. Il peccato è l'unico e vero problema tra l'uomo e la divinità alla quale si rivolge, ne sono una prova. Tutti quei sacrifici che in un modo e nell'altro si offrono alla divinità, sia per placarla, sia per avere un rapporto accettevole. Si possono con un certo sorrisino disdegnare i vari sacrifici cruenti e non di tante popolazioni da noi ritenute arretrate, ma se siamo in grado di osservare con una certa obiettività, il cattolicesimo romano con il suo cerimoniale liturgico continua da millenni a avvicinarsi a Dio mediante sacrifici, il primo dei quali è l'Eucaristia o la Messa, chiamata anche Santo Sacrificio, perché attualizza l'unico sacrificio di Cristo Salvatore, Catechismo della Chiesa Cattolica 1330. In effetti, durante la messa avviene la conversione del pane e del vino nella sostanza del corpo e del sangue di Cristo, 1376, onde perpetuare, cioè far durare nei secoli fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, i documenti del Vaticano II, e in quanto a sacrificio l'Eucaristia viene anche offerta in riparazione dei peccati dei vivi e dei defunti, e al fine di ottenere da Dio benefici spirituali o temporali, 1414. Nulla, quindi, di diverso né di nuovo nella religione cattolica in confronto agli altri riti religiosi. Non è così, però, per quanto concerne il messaggio espresso nel Vangelo. La buona notizia annunciata da Gesù riguarda un patto nuovo da Lui stesso stipulato con chi avrebbe creduto nella sufficienza del suo sacrificio, un patto mediante il quale non solo il credente riceve garanzie di avere perdonati tutti i propri peccati, ma per la sua grandissima misericordia Dio addirittura dichiara di non ricordarsene mai più. Mai più ricordantico testamento I non vuol dire D-I-M-E Nuovo Testamento I-C Antico Testamento I-M-O, perché possono venirmi in mente all'improvviso, ma anche se mi venissero in mente, ricordiamoci che è Dio che parla, io non ne farò più cenno, non saranno mai più argomento di discussione, e tantomeno di divisione tra me e te. Questo è il nuovo patto stabilito da Dio, dall'eternità, in relazione a chi semplicemente decide di porre fede in ciò che Cristo ha fatto, riconciliando così una volta per sempre l'uomo a Dio. Un nuovo Antico Testamento Tio, che, se fosse stato afferrato dal cattolicesimo, ne porterebbe i seguaci a smettere immediatamente di offrire i sacrifici, mediante i riti imposti dalla sua tradizione. Purtroppo, ogni offerta per la riparazione dei peccati, dei vivi e dei defunti, al fine di ottenere da Dio benefici spirituali o temporali, non è altro che una offesa all'opera di Cristo e al piano di grazia del Dio Trino, e un disubbidire la legge di Dio. Una trasgressione che non può essere chiamata che in un solo modo, peccantico testamento o essere perdonati e vivere da perdonati, questo è il cristianesimo, questa è la nuova via, Atti 8.20. Il cristiano è colui che cammina in modo nuovo su di un cammino vecchio, è la cellula vivente che si muove in un corpo morto, è il cittadino sano che opera in una città malata, è il ricco religioso che adora in mezzo a religioni insufficienti, è colui che dona quanto ha ricevuto tra coloro che cercano ancora di ottenere qualcosa già a portata della loro mano. Quando si è coscienti che i propri peccati non saranno mai più ricordati, una gioia insolita e divina invade tutta la persona. Il buio si trasforma in luce, il dolore diventa una sfida, le insufficienze sono ragione di vanto, le cose terrene, perdono di significato, perché ciò che non si vede prende improvvisamente valore. Il miracolo del perdono totale, immediato ed eterno, ha la capacità di trasformare un egoista in altruista, mentre chi vive ai margini della società, scartato e dimenticato, è in grado di lasciare la sua impronta nella storia dell'umanità. Milioni di vite trasformate dal perdono di Dio sono un annuncio e un anticipo di cosa può succedere dopo la morte. È risaputo che molti non credono ad un'esistenza dopo la morte, ma la loro incredulità non annulla ciò che è vero. Che cosa si vuole intendere quando si afferma io non ci credo? Si vuol dire che poiché non ci credo la cosa non è vera. E, assurdo, se io sostengo di aver sollevato 100 chili con un dito, non credendoci, uno non annulla ciò che ho fatto. La sua totale incredulità ed anche un'eventuale risatina di scherno rivela solo una brutta peculiarità caratteriale. Niente più. Così è del nuovo patto. Chi non ci crede mette in evidenza la sua stupida incredulità, perché non può in alcun modo provarne la falsità, mentre milioni e milioni di persone, fra le quali ci sono anch'io, sono pronte a testimoniare che ciò che Dio ha detto è vero. Se io sono stato perdonato e vivo da perdonato, come puoi tu dire che non è vero? Pensi che sia una questione soggettiva, o che mi sia illuso o autoconvinto? Se fosse così, perché anche tu non ti convinci di essere perdonato da Dio? ma nessuno, proprio nessuno, può avere la certezza che i suoi peccati non sono più ricordati se non per lo Spirito di Dio. Questa esperienza è talmente grande e divina che rimane una delle più forti testimonianze di condanna verso gli increduli. Ma Dio continua ancora ad avere misericordia e chi accetta il nuovo patto non solo ha garanzia che i suoi peccati non sono più ricordati, ma ha anche scritto nella mente e nel suo cuore la legge di Dio, ha Cristo quale Dio da seguire, fa parte del popolo di Dio, viene istruito direttamente da Dio, conosce personalmente Cristo. Solo parole angeliche potrebbero esprimere ciò che si prova. Maggio 2009, Ellero,